quando i pensieri gelavano nell'aria. Dovete sapere che 1 milione di anni fa al polo faceva molto più freddo di oggi. Come niente, la temperatura scendeva a 1 miliardo di gradi sotto zero. Con un freddo simile, tutto ghiacciava. Persino, non ci crederete, eppure è così, persino il pensiero. Appena uno pensava, per esempio, ma che freddo boia, subito, ecco, sulla sua testa si formava come una nuvoletta di vapore, e dentro la nuvoletta, a lettere di ghiaccio aguzze e gocciolanti come stalattiti, si poteva leggere, che freddo boia. Questo fatto dei pensieri ghiacciati e dunque visibili aveva finito per portare al logico risultato che nessuno al polo aveva il coraggio di pensare quel che sia. Tutti avevano paura che gli altri gli leggessero nel pensiero. Così alla fine orsi, pinguini, foche, cane, esquimesi, nessuno pensava a niente. Era insomma un mondo di tonti. Ma erano tonti non perché fossero in assoluto incapaci di pensare, ma per gentilezza, per delicatezza d'animo. Uno di quei secoli, allora un secolo voleva dire un giorno, un certo Tri Keko se ne stava su un lastrone di ghiaccio a godersi il freddo, immobile, con gli occhi socchiusi, senza altro pensiero in mente che questa paroletta, bah. Intanto sulla sua testa, a lettere di ghiaccio, si leggeva appunto bah. Che cosa poi volesse dire questo bah, non è stato possibile saperlo. E che a un tratto, fuori dal mare, emerse tale anguilla, tutta sprintosa, spiritosa e scodinzolante, che gridò a Tri Keko: Ehi, Tri Keko, sta un po' a sentire. Tri Keko bofonchiò: Dimmi, anguilla. Sta a sentire quello che mi è successo durante il mio ultimo viaggio. Figurati che sono stata in un paese che si chiama Tropico, dove fa un caldo, ma un caldo. E figurati, a Tropico i pensieri non gelano. Non mi dire. Proprio così. Per esempio, uno ti guarda e pensa: Che sederone ha Tri Keko. E tu ignori questo pensiero perché laggiù, con quel caldo terribile, i pensieri non gelano e dunque restano invisibili. Chi dice che un sederone, brontolò Tri Keko impermalito? L'ho detto per darti un esempio. Ascolta, perché non ce ne andiamo via dal polo, dove non si può pensare nulla che, senza che tutti subito lo sappiano? Perché non andiamo al paese del Tropico? Se tu sapessi che piacere pensare senza timore, in piena libertà. A Tropico ho fatto proprio una scorpacciata di pensieri. Che cosa pensavi? Tante, tantissime cose. Per esempio? Ma, non so, per esempio, il sole è verde. Oppure, 2 e 2 fanno 5. Ma il sole non è verde, e 2 e 2 fanno 4. Si capisce, giusto, ma questo è il bello. Puoi pensare tutto quello che vuoi e nessuno lo sa. Insomma, Anguilla tanto disse e fece che Tri Keko si lasciò convincere ad andare con lei nel paese di Tropico. Forse non si sarebbe deciso così presto se proprio in quel momento da una barca che si era accostata al lastrone di ghiaccio non fossero discesi 3 uomini impellicciati armati di bastone. Ora al polo tutti stanno sempre con gli occhi verso il cielo per vedere se qualche pensiero ghiacciato si profili nello spazio. Tri Keko, che guardava al di sopra delle teste dei 3 uomini armati di bastone, lesse con orrore: Adesso ammazziamo un centinaio di queste stupide bestie bastonate sul muso e ci facciamo tante borsette e tante scarpe. Vedere quelle parole che vibravano, gocciolavano in aria e scivolare giù dal lastrone, per Tri Keko fu tutta una sola cosa. Anguilla prese a nuotare davanti a lui e Tri Keko la seguì a ruota, o meglio, a pinna. Nuota e nuota, la temperatura passò da 1 miliardo di gradi sotto zero a 1 miliardo di gradi sopra zero. Mamma mia, che caldo! Il mare bolliva proprio come l'acqua in una pentola, soltanto che in questo caso il fuoco non era sotto la pentola, ma sopra. Tri Keko non pensava ancora a nulla. Dopo milioni di anni passati senza pensare, la sua testa era ancora paralizzata. Ma ogni tanto, pur nuotando, interrogava Anguilla. Anguilla, carissima Anguilla, stai già pensando? E come? E cosa pensi? Penso tante cose di te. Per esempio? Ah, non te lo dico, potresti offenderti. Tri Keko ci rimase male. Al polo, come abbiamo detto, nessuno pensava nulla di nessuno. E ora invece ecco Anguilla che, approfittando del fatto che a Tropico i pensieri restano invisibili, pensava di lui chissà quali cose antipatiche. Pettegola, sciocca, ipocrita creatura. Tutto a un tratto, Tricheco si accorse di pensare molto male di Anguilla e fu sicuro che Anguilla, dal canto suo, pensava molto male di lui. Lo stesso, del resto, succedeva con tutti coloro nei quali via via si imbatteva il paese di Tropico. Tutti facevano i più grandi complimenti a Tricheco. Ben arrivato, come sei bello, che muso intelligente, che occhi espressivi, che bei baffi, eccetera, eccetera. Ma Tricheco era sicuro, arcisicuro, che se fossero stati al polo, lui avrebbe letto per aria a lettere di ghiaccio: ci voleva anche lui adesso, che bruttone, che muso, che occhietti di porco, che baffoni cadenti, eccetera, eccetera. Questa certezza che nel paese di Tropico tutti pensassero il contrario giusto di quello che dicevano, avvelenava il soggiorno di Tricheco. Uno di quei giorni, nel mezzo del Golfo di Guinea, sotto un sole da 1,5 miliardi di gradi sopra zero, un certo individuo dalla pelle scura a nome Africano se ne stava in barca con la moglie e i figli e cantava una canzoncina ad Anguilla che stava ad ascoltarlo rapita, a bocca aperta. Anguilla, Anguilla, come sei bella, così grassottella e tuttavia snella. Anguilla, Anguilla, come sei bella. Anguilla, attirata da queste parole gentili, dimenticando evidentemente che nel paese di Tropico si dice una cosa e se ne pensa un'altra, si avvicinò alla barca. Allora Africano, lesto, gettò la rete e in men che lo dico, la povera anguilla fu presa, fatta a pezzi, panata, fritta e divorata. Tricheco aveva assistito inorridito a questo scempio. Si allontanò pensando: che orrore! Ah, viva la faccia di noi altri del polo, che non pensiamo mai nulla, e se pensiamo, tutti possono vedere quello che pensiamo. Tuttavia, un po' per la novità dei luoghi e dei costumi, un po' per pigrizia, Tricheco non ripartì per il polo. Oltretutto, perché non ammetterlo, questo fatto di poter pensare senza che gli altri leggessero nel pensiero, e soprattutto di pensare il contrario di quello che poi diceva e faceva, lo affascinava. Così Tricheco restò nel paese di Tropico e ne adottò le abitudini. Certo non era un mondo così leale e trasparente come quello del polo. In compenso, però, il fatto di pensare per conto proprio, senza controlli esterni, portava degli sviluppi impensati. Per esempio, pensa che ti ripensa, Tricheco arrivò a pensare cose molto elevate, addirittura filosofiche. Cose di questo genere. Chi siamo? Da dove veniamo? Qual è il nostro destino? Perché ci siamo? Dove andremo? Erano insomma le domande che ci si pone se, tanto tanto, non si vive per mangiare, ma si mangia per vivere. Le risposte erano: siamo tutti trichechi, veniamo dal polo, il nostro destino è di mangiare pesci. Ci siamo perché ci ha creati un essere supremo che, manco a dirlo, ha la forma di un gigantesco tricheco. Alla fine lasceremo il paese di Tropico, così falso e bugiardo, e torneremo al paese della lealtà e della verità, cioè al polo. E questa fu infatti la conclusione del viaggio di Tricheco al paese di Tropico. Un bel giorno, stufo di pensare una cosa e di dirne un'altra, Tricheco ripartì per il polo. Sì, pensava, non pensar più, che riposo. Star lì immobili, vuoti, senza pensieri, per almeno 1 milione di anni. Ahimè, illusioni. Una volta al polo, sul suo vecchio lastrone di ghiaccio, Tricheco si accorse che ormai aveva preso il vizio e, per quanto si sforzasse di non farlo, non poteva fare a meno di pensare. Naturalmente, tutti i suoi pensieri apparivano immediatamente al di sopra della sua testa, scritti in scintillanti e diafane parole di ghiaccio. Orsi, pinguini, foche, pesci e pesciolini vedevano questi pensieri ghiacciati e facevano a gara a scappare lontano da lui. Già, perché al polo allora pensare era considerato, se non altro, una grave sconvenienza. Come da noi passeggiare nudi per le strade. Il povero Tricheco, dal canto suo, vedendo i suoi amici di un tempo evitarlo e sfuggirlo, non poteva fare a meno di pensarne tutto il male possibile. Questo male subito si esprimeva in nuvolette piene di ingiurie e invettive raggelate, e così il fossato tra Tricheco e la gente del polo si approfondiva, diventava invalicabile. In breve, Tricheco rimase solo sul suo lastrone, per sempre solo. Da allora a oggi la temperatura è molto salita al polo, in modo che i pensieri non gelano più, sono diventati invisibili. Ciononostante, Triceco ha ormai preso l'abitudine della solitudine e non se la fa più con nessuno. Solo sul suo lastrone pensa. Che pensa? Pensa con nostalgia ai tempi in cui non si pensava perché i pensieri erano visibili. Bei tempi spensierati, benché freddi. Alberto Moravia da Storie della Preistoria.